Ma anche, secondo me, perché molto lentamente. Benvenuti alla 539esima. Mamma mia, qui. Spaziale. E oggi abbiamo degli ospiti d'eccezione. Certo, abbiamo tutti i co-conduttori e le co-conduttrici. No, non possibili. Ci sono tutti. Tutti, c'è, no, Cinzia. È vero. C'è Cinzia. Ed è tornata a trovarci, ma rimarrà con noi. Irma Papicchio. La devo aggiungere come co-conduttrice. Nella sigla, perché era fatto la sigla nuova che dice con Cinzia due volte. E dobbiamo rifarla. Certo. Vabbè, ma così, così funziona. Assolutamente. Cioè, no, in effetti possiamo rifarla partire e io dico con la Irma Papicchio. Tanto ci sta ascoltando qualcuno. Se qualcuno ci sta ascoltando può scrivere 3380 94 94. Perché noi non andiamo in vacanza, mai. Assolutamente. No, non è vero. No. Vero, infatti. No, la settimana prossima è l'ultima, prossima poi agosto ci fermiamo. Già. Ci rivediamo a settembre. Oh mamma. Come la scuola. Accumuleremo i messaggi vocali di Marco Roma. Di Marco Roma. Anche di tutti gli altri che vorranno mandarceli. Assolutamente. Marco Roma, se sei in ascolto, se ascolterai mai, tu scrivici, non è detto che non facciamo un remix. Vocalaci. A un certo punto. Vocalaci. Sì, sì, sì. Videochiamaci. Videocicalaci. Aggiungeremo un monitor di là solo per questo. Come sto? Come stai, Elisa? Ma un po' stanca alla, adesso. Alla regia. Ma sai che ormai... Ormai è tua. Ma più o meno, sì. Poi ogni tanto arriva... Arriva il microfono, devo dire così. Che... Lascia un po' appunto, stavo dicendo, no, anche voi non vedete il video, però ogni tanto arriva sulla mia spalla destra Stefano W. Pasquini. Giusto ad alzare un po' Vanessa May, visto vabbè, che, ma certo. È un sacco che non ci vediamo. Vabbè, questo per dire che è una puntata dove non succede niente. Non succede niente, no, anzi succede la cosa più importante della stagione. Che cioè, è sentiremo l'angolo finalmente... della menzione all'inizio della puntata. È una cosa che non si vedrà in altri momenti. Mai più. Non è che possiamo spoilerare tutto subito. No, questa piano puntata. Piano. No, esatto. No, no, no, no. Spoileriamo tutto piano piano. Piano piano, però io sono impreparata perché non ho aperto le menzioni. Ok. No, ecco le menzioni. Sono lì, vedi. E come al solito non ho gli occhiali, quindi perfetto, allora sarà vostro compito. Clicca sarà quello. E incredibilmente non va. Solo della menzione. Già, così. Vabbè, certo. Comincia mercoledì alle 21:30 in piazza Lucio Dalla, proiezione su maxi schermo di David Lynch The Art of Life, The Art Life, un ritratto inedito di uno dei più enigmatici e significativi cineasti contemporanei, David Lynch, dall'infanzia nell'idillio della campagna statunitense sino alle brulicanti strade di Filadelfia, la storia di un regista originale e incisivo. Visioni, ricordi, incubi ed esperimenti, un testamento spirituale di John Nguyen, non riesco a leggere. Ah, l'hai scritto tu. Rick Barnes, ma perché c'è il correttore che mi mette delle Olivia, righe. Olivia Nygaard Holm, ed è un documentario USA Danimarca, ingresso gratuito in piazza Lucio Dalla mercoledì alle 21:30, ci vediamo tutti lì. Bellissimo. Oh, mi raccomando, io sono a Cervia da Tozzi mercoledì, mi dispiace. Oh, mi raccomando, perché è piazza Lucio Dalla comunque. Sono un sacco di eventi fighissimi. Sforna un sacco di eventi fighissimi, soprattutto gratuiti, e soprattutto è dietro casa mia. Infatti. Beh, sì, è in Bolognina. Quindi poi. Tutti a casa di Lisa. Quindi tutti a casa mia, una bella cena e poi si va in piazza Lucio Dalla. Che musica. Oddio, sta già ma questo è un piccolo spoiler della puntata. Ops, no, diciamo che invece giovedì 24 alle ore 18 il Museo Capovolto, visita guidata speciale, è una visita guidata gratuita al Museo Lercaro. L'arte non è ciò che vedi, ma ciò che fai vedere agli altri, sosteneva Edgar Degas. Una frase che ci ricorda che l'opera d'arte, quando viene esposta al mondo, non appartiene più all'artista, ma a chi la guarda. Sarà proprio questa prospettiva a guidare la nostra prossima visita speciale alla collezione Un'esperienza Capovolta, dove sarà il pubblico, non la guida, a condurre la lettura delle opere, a condividere impressioni, suggestioni, emozioni. Un invito al dialogo e allo sguardo personale sull'arte, un'occasione da non perdere. Visita ad aggregazione libera, appuntamento a museo alle 17:50 al Museo d'Arte Lercaro in via Rivarideno 57 a Bologna. tra l'altro assolutamente in linea con quello che diceva Umberto Eco in Opera Aperta, così sarà l'unico commento intellettuale della puntata. E tra l'altro ci sarà anche un'opera della fantastica fotografa, artista visiva Lisa Mignemi all'interno di una delle mostre della raccolta Lercaro, per cui sti gran chiazzi. Poi giovedì 24 luglio alle 21 abbiamo live drawing e musica a cura dell'artista Andrea Bruno e del musicista J.H. Gurai, contaminazioni tra musica e disegno, tutto questo all'Isola Verde in via di Saliceto 5 a Bologna. Venerdì. Chi si fosse collegato adesso, cosa che non penso perché non abbiamo ascoltatori, però abbiamo anticipato le menzioni a inizio puntata. Certo. Per esempio Giancarlo Norese, che salutiamo, lui noi lo salutiamo solo per le menzioni. Certo, prego Cinzia. Dicevamo. Scusami. Oh no, scusa te. Che venerdì 25 luglio alle ore 19:21. Festa di chiusura estiva da Mag Bonobolabon. Chiudiamo per la pausa estiva con una scioglilingua. Bonobolabon. Chiudiamo per la chiusura estiva con la mostra At Best Before Dot Exhibit. Okay? Che tornerà a settembre con nuovi 29 opere. Per l'occasione ci piacerebbe salutare tutti gli amici con un happy hour nel nostro nuovo Deor. Solo per quella sera prezzi speciali su alcune opere selezionate. Vi aspettiamo in via Testoni 5 e D a Bologna. No, mi fa morire perché giustamente in questo testo che noi abbiamo a disposizione a video delle menzioni, che dovrebbe essere solo di lettura, Stefano ha ben deciso di inserire anche un link, delle emoji. Ah, e delle emoji. Stavo per fare qualcosa per esprimere quelle emoji. Tra cui dopo The Or c'è cioè una cocorita. Sì, ma dopo nove opere che cos'è? Un Pokémon? Ma sì, probabilmente sì. No, fra l'altro io Luigi. Mi ricordo che 10 anni fa Fedra mi sgridava live naturalmente, proprio certo. Perché io facevo copia e incolla dai comunicati. Mm-hmm. Ma certo. Così, e dopo Fedra se n'è andato e io ho continuato ma naturalmente sappi fare, che io da settembre comincerò a leggere anche... Anche senza occhiali, no? No, uno anche senza occhiali perché ovviamente io ho i superpoteri. Infatti. Due, comincerò a leggere anche questi sticker. Queste... Io invece provo a fotografare con questa... No. Ma devi togliere il copriobiettivo, sai? Ma dai! le indicazioni elementari. Io e la mia laurea in fotografia che non ho. Esatto. Volevo dirti, ma per caso sei laureata? Oddio, mi si è svampato il PC. Ah, ecco, c'è tutto. Ti piace questa canzone di sottofondo? No, infatti, cioè, wow. Vanessa May. Sono emozionata. Unita al grillo della Lidl, devo dire che sta rendendo questa puntata assolutamente epica. Quindi, visto che abbiamo ancora alzato, no, forse no, mi è arrivato una canzone da Tullo Petazzi, Tullo e Rebel Hot, che se vogliamo la possiamo ascoltare, così intanto abbiamo la nostra Cinzia che si scalda. Che si chiama? No, non è lì, non lo trovi lì. Dove lo trovo? Lo trovi qua, è difficile la vita. Mi dica. No, dove sei andata? No, questo lo so. È un altro. Sono io e Stefano di Coxo Spaziale. Ah, okay. Non ti hanno bloccato ancora? No, incredibile. Incredibilmente ti bloccherò città, io. Vorrei dire che ti blocco io. No, volevo salutare Tullo Petazzi e i suoi Rebel Hot e ascoltare cosa ci hanno mandato. Lui. Sì, no, perché lui scrive durante la notte e poi però non si sente. Ma secondo me sai che c'è un problema al cavo, ma credo che sia presente da un po' e sia antecedente al mio arrivo in radio questo problema. Non è colpa di Lisa, lo sappiamo tutti. No, comunque pure forse. Ha deciso che non va. So what? No, ha deciso che quindi non va. Quindi Cinzia, dicevamo che volevamo ascoltare un tuo pezzo. Cosa molto ci fai bene. Sentire? Allora, no, intanto dovremmo far funzionare il mio microfono, che non sarebbe male. Il CD2 è quello che sei pronta? Quindi tipo io mando il play qua? Se tu mandi il play lì, che cos'è quella roba? Ah no, questo è Non è CD2, il PC. Non ho capito. Ecco perché non si sentiva tu. Vai, tutto tuo. I call you when I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. When you come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world. You know what it means. You can be wrong. Take my heart and make it strong, baby. You're simply the best. Better than all the rest. Better. Start of every night, of every day. In your eyes I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in a better place. You're simply. Coraggiosissima, bravissima, fare questa cosa. Grazie. C'era anche l'Armenia punk folclorica che salutiamo, che ci ascoltava. Ciao. Almeno che ci guardava. Ah, eravamo in diretta. Se vogliono mandarci in diretta delle... su Instagram. Poi io però non avevo realizzato che fuori si sentiva solo la tua voce e non la base. Ah. Per cui dopo gli ho aggiunto la cassa, cioè la cassa, un pezzo di altoparlante, orecchie permettendo. Boh, vabbè, è stato wow, molto bene. Grazie per l'ascolto. Com'è che io lo sentivo? Perché tu avevi le cuffie, ma fuori dalle cuffie si sentiva solo la sua voce. Beh, sei stata incredibile. Ma grazie. Grazissimo. Chissà, comunque tu sicuro ce l'hai presente, loro non lo so. Però vai. Quel trend, cioè mi ha fatto avvicinati ridere pure. Perché ho no, no, avvicina il micro a quel trend di TikTok, non è il suo caso, ma, ovviamente, però quando tipo c'è Schifidi Poppi, Forza Napoli. Quando da un momento all'altro la tua amica ti dimostra il suo talento e inizia a cantare malissimo, però e quindi tutti i commenti sotto, puoi andare a nemici, tipo il talento ti rincorre, ma tu sei più forte. E quindi, non era questo il caso, però effettivamente ero uscita un po' così. Bellissimo. Sì, ho preso, sì. Non dovevo vedere quel video perché adesso non riesco più a prendere niente. Vabbè, comunque. Il talento ti ha presa e tu mi ha preso, ti sei fatta prendere. Ecco qua. Adesso avrei un sacco di nemici e potrei andare ad amici. Ma no. Ma non ho nemici. Ad amici no, no, con un sacco di nemici. Esatto. A me basta cantare in ogni singolo momento della mia vita, ma non per fare spettacolo. Quindi, abbiamo spoilerato a sufficienza. Questa è una puntata in cui non succede niente. Una puntata canterina, una puntata karaoke. Wow. Dove lasciamo spazio alla nostra Cinzia, finalmente. Oh, wow. Infatti, era di ora. Di esprimersi. Che bellezza. Siamo alle 20:21. Tantissimo. È un piacere. Mi hanno detto che farai una cover di Gigi D'Alessio, vero? Oh, Gesù. È vero? Un nuovo bacio? Sì. Tu fai Anna Tatangelo, Pasquini fa Gigi. Ma davvero? No, scusa, allora. Faccio Gigi. Io mi ricordo così. Allora, io e te, Imma, facciamo i cori, però, perché sì. Questa è la canzone d'amore mia di Imma. Ah, beh, allora. Cioè, il nostro amore è legato in maniera indissolubile da questa canzone di Gigi. Sì, in particolare da questo uomo. No, era dell'acqua. L'acqua. Un gatto ha vomitato. Splush. Splush. Quindi non ho capito, io qui avrei la Celine Dion, però facciamo puro. Quello dopo la città. Sarda l'hai detto. Non è puro. Puro. No, ma io seguo anche voi. Cosa di Celine Dion? I'm Alive. Ah, vabbè, incredibile. Okay, quindi... questa donna è piena di sorprese. Quindi abbiamo 6 minuti di cazzeggio. Appunto, dobbiamo sentire. Sì. Gigi D'Alessio, no? Allora, sì, facciamo, volentieri. Se una puntata no, perché altrimenti possiamo sentire anche Gigi D'Alessio. Ma sei pazzo. Ma un duetto Celine Dion e Gigi D'Alessio. Ascolta, Imma, allora ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Ci sono le voci sotto. Io non abbasso i microfoni. Quindi? Quindi, Imma. Imma. Ti prego. Imma. Vai. Dai, sì. No. Scherzando, Pasquini e Gigi D'Alessio e Liana Tatangelo. Vabbè, facciamo tutti e quattro. Ci sono le voci sotto. No? Ci sta. Se veniste al passaparola con me, scoprireste che si canta sempre così, tutti insieme, appassionatamente. Tutti insieme, appassionatamente. Poi io scelgo una canzone. Noi intanto mettiamo. Wow, ragazzi, dai, cioè, emozionante. Il testo qual è? Aspetta. Dobbiamo dotarci di. Non lo so, Pasquini, non riesco a vedere così. È una missione. Cioè gli occhi miei mai avrei pensato di. Dai Stefano. Chissà se con lo stesso sguardo. Ma vedi non si sente. È che non la so. Non ce l'ha. E mai avrei pensato di. Io devo dirtelo. Dai, mentre provavo a non pensarti, ti pensavo sempre più. Siamo un po' troppo. Vai Stefano. Adesso per scappare. Per scappare. Via. Via. Tu non lo sai. Prima di te. Prima di te. C'è stato un altro che ha lasciato le ferite dentro me. E non ero io. Non aver paura, giuro amore. Sono qui a dire. Lui è veramente di Lernia più che. Con il tempo guarirò il tuo cuore, cancellando i lividi. E per tutti i giorni che verranno ti respirerò. Oltre che di cose le le cose dette mai. Di questo amore noi saremo gli angeli. Il mio petto da cuscino per la vita ti farà. Sembra cominciata già una storia senza fine. Farò girare il mondo intorno a noi. Arriverà Natale senza nuvole. Le domeniche d'agosto quanta neve che cadrà. E nel tempo che verrà il mio cuore ti sorprenderà. Che freddo fa, stringimi un po'. Riaccendi tutti i desideri quasi spenti dentro me. Con le dita sfiero il tuo profilo, poi mi fermo un attimo per giocare con i tuoi capelli che nel vento volano. Prima di scoprire un bacio nuovo che sapore avrà. Chissà. Io ti dirò le cose dette mai. Di questo amore noi saremo gli angeli. Il mio petto da cuscino per la vita ti farà. Se m'è cominciata già una storia senza fine. Farò girare il mondo attorno a noi. Arriverà Natale senza nuvole. Le domeniche d'agosto quanta neve che cadrà. E nel tempo che verrà il mio amore ti sorprenderà. Bella. Dai, cioè, che bella. Comunque non è cantato, non vorrei dire. No, infatti Stefano, non la conoscevo. Stefano, doveri. Mi, come non la conoscevi? Non la conoscevo. L'inno d'Italia. Oddio. L'inno d'Italia è l'italiano tutta di Toto l'Italia, Cotugno. Tutta l'Italia, sei rimasto un po' indietro. Quello era l'inno di Sanremo. Stavo scherzando. Beh, Cinzia, è stato un piacere cantare. What? Ah beh, infatti c'era Duolingo nel mezzo, è stato pazzesco. Ah sì. Imma, grazie di aver cantato il nostro inno d'amore insieme. È stato... Non è che hai cantato tanto anche tu, comunque. No, lei era impegnata a documentare. Era troppo emozionata. Tu non eri nemmeno emozionato, quindi non vale. Imma, mi vuoi sposare? Sì. Ah, chi? Sì. Noi siamo già sposati. Sono persa. C'è Tatangelo che dice che è ora è tempo della pubblicità, forse. Ah, okay. Ma forse. Che ne dite? Dov'è? Il soccorso facile. Cox spaziale. Qualcuno ha detto Cox spaziale? Ma no. Cara regista, no, neanche io. La risposta è sì, se vuoi. Se posso far la terza, faccio quella che abbiamo appena detto e la facciamo col tuo microfono aperto anche. Oh, wow. Va bene? Ma la so questa? No, non la sai. Non lo so. No, io ti lascio. Io ti lascio. Per il momento. Tutto. Ma... per il momento faccio la seconda che avevo previsto e che vi avevo vagamente anticipato. Mm-hmm. E vabbè. Mm. Poi dopo mi cerco l'altra. Ah, vedi. E facciamo che tu ci sei. Sì. No, cosa io volevo vuoi? volevo farvi sentire la canzone di Tullo Notturna. Assolutamente sì. Tullo. Che è sempre di là. Beh, ma è di fianco a Marco Roma, al Marco Roma di oggi. Ah, certo. Che però sì, non abbiamo. Qualcuno. Non si è capito. No, ecco perché. No. Perché è questo. Però continuano ad andare, chissà. Proviamo. Chi lo sa? Ah, andato. Vai. Barbone. Beh, pazzesca. Posso guardare, anche se sono sporco vorrei entrare. Scusi signore, mi fa vedere, anche se sono sporco vorrei entrare. Barbone, tocchi il culo alle signore, così non va bene, così non si fa. Ehi, già, già, già, già, già, già, già, già. Subitamente dopo un gran parapiglia venne il sergente con la sua squadriglia. Caso normale, nulla di grave, un vecchio barbone che voleva entrare nel nuovissimo negozio del saloniere. Barbone, tocchi il culo al signore, così non va bene, così non si fa. Già, già, già, già, già, già, già, già. Sì signore, si va all'ospedale, la gente ha paura che possa tornare, perché non è bene, perché non sta bene che a simili stronzi sia permesso girare. Barbone, tocchi il culo alle signore, così non va bene, così non si fa. Già, già, già, già, già, già, già. Ma lui che cos'è? Ma lui che cos'è? È un barbone sì? È un barbone no? Che cos'è? Già! Scusi signore, mi faccia uscire, che non ho fatto proprio niente, ma niente di male. Scusi signore, mi fa respirare, che non ho fatto proprio niente, ma niente, ma niente di male. Caso normale, è bastato sparare sul vecchio barbone che voleva uscire dal nuovissimo negozio del saloniere. Un caso normale, è bastato sparare sul vecchio barbone che voleva uscire dal nuovissimo negozio del saloniere. Vittore, Vittore, Vittore, Vittore, Vittore, Vittore, Vittore, Vittore, Vittore, Vittore, Vittore, Vittore, Vittore, Vittore, Vittore, Vittore, Vittore, Vittore, Vittore, Vittore, Vittore, Vittore, Vittore, Vittore, Vittore, Vittore, Vittore, Vittore, Vittore, Barbone! Tocchi il culo alle signore, così non va bene, così non si fa. Già, già, già, già, già, già, già, già, già. Sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. Sa il fatto suo, Tullo e Rebel Hot. Ma a me è piaciuto molto. Dovete sapere che il 30 agosto verrà la Piazza Lucio Dalla, per cui ci tocca di andare. Oh, raga, io ve l'ho detto. Dalla, abbonatevi se non fosse Piazza che tutto Lucio gratuito. Dalla, Piazza Lucio Dalla. Se non, cioè, se non fossi in Bolognina sarebbe... No, no. Contro la se non fosse che si paga zero abbonati. Scherzo. No, vabbè, è che non, è che non ci sono gli alberi in Piazza Lucio Dalla. Cioè, i vasoni. Ci sono gli skateboard, tutto. Gli skaters. Ci sono gli... Però c'è la, fontana, c'è la fontana. Ah, no, c'è la Vi vorrei far vedere la faccia della Mignemi. Ok, Mignemi. Okay. Mi sono intrappolata. Senti, ma invece al pilastro ci sono i vasoni? Li hanno messi gli alberi? Allora, al pilastro c'è un parco incredibile. Non c'è bisogno minimamente dei vasoni. Ok, diciamolo, Isa. Okay. No, è vero. Dai. Ma hai un hotel incredibile. Incredibile. E infatti questa è la musica che stiamo sentendo, viene dall'hotel. Dall'hotel. Come si chiama questo hotel? Savoia. La parte Savoia. Savoiardo. Diciamo, no. Più, non lo so come chiamarla. Più Savoiarda. E poi la parte country, dove magari puoi entrare con le Birkenstock nell'altra Un po' più... antica, un po' più rinascimento. Comunque io mi sento, almeno Costar mi sta dicendo che è ora di Céline Dion. Ah, sì. Abbiamo detto così che boom. Siamo pronti. Vabbè, così che boom. Un, due, tre. Siamo un, due, tre. Un, due, aspetta che ti deve alzare il computer, il computer ospiti, devi quello, esatto. I can't wait to fly. Oh, I'm alive. When I hear you breathe, I can't wait to fly. When you Wow. She's alive. She's alive. Bravissima Cinzia. Brava Cinzia. Che bello. Yeah. Hai visto che alla fine. Oh wow. Celine Dion. Ce l'abbiamo fatta. I'm alive. Why the long face? Brava Cinzia. Brava Cinzia. Grazie, a parte alcune tipo distorsioni che ho fatto baciando il microfono. Vabbè, tipo, dai. Wow! Sì, ma è stato tutto live, tutto improvvisazione, nel senso non si può pretendere la grazie, la grazie, insomma. Sono ipercritica. Ti è. Sei bravissimo. Comunque praticamente abbiamo fatto una puntata musicalissima oggi. Beh, mi è arrivato anche un altro pezzo da aspetta, sì. L'avevo scritto nelle menzioni. Sì, sì, the first one, il primo cosa che c'era nella menzione. Cosa c'era scritto? Tu lo trovi? Era Today we send you the new single from Ty Weeks and Sergeant X Comrade. Mm-hmm. Ty Weeks and Sergeant X Comrade holding on Santa Lucia aveva label Jatta Records and Mongravi Records. Grazie a Felix di Boom Rush Promotions. Boom Rush Promotions. Tullio Petazzi e Rebel Hot Barbone. Ascoltiamo Holding On di holding abbiamo on. Detto Ty Weeks and Holding On and non Hold the Line dei no, Toto. Non Hold the Line. Hold the Line. 3380-94 se volete 94-94 se volete spedirci degli insulti li ascoltiamo. Vabbè. Continuate così. E dopodiché però dopo 20 minuti ci scrivono dopo le performance mi sa che mi sono sbagliato. Oddio. E poi arriva una sfida, se avete il coraggio commentate il messaggio, però abbiamo bisogno anonimo. Ah, vedi, gli abbiamo chiesto il nome, ma non ce lo dice. Però noi ti salutiamo e ti abbracciamo. Qualcosa ci dice che qualcuno di noi lo conosce questa persona. Capito. però continuo ad ascoltare adesso... e a sopportare, come scrivi tu, e supportare. Comunque adesso daremo pubblicamente il suo numero di telefono. No. Oddio, no. Ma no. Ma scherzo, naturalmente. La privacy è una cosa da qua, proteggere. Qua Vanessa May continua a suonare il violino come se non ci fosse un domani. Ma lasciamola certo. suonare il violino. Mm. No, dico che ridi e scherza, abbiamo fatto le 20:50, per cui anche vedi questa quando puntata, non si fa un cazzo. Ops. È bastato far sentire due o tre canzoni che la puntata è finita di nuovo. Ok. Malgrado quindi... non siamo una trasmissione di musica. È arte anche la musica, o sbaglio? Senti qua. Con questo basso livello di radiofonia. Perché è partito? No. Perché? Sei partito? In che senso? È partito Cannella, perché? È partito. Da solo. Perché qualcuno non ha fatto stop, cioè io. Chi qualcuno? No, intanto sì, no, Imma qualcuno mi chiedeva. Cioè io. Imma mi chiedeva una cosa poco fa. In effetti Imma ha parlato poco. Imma. Questa nuova co-conduttrice. Co-conduttrice, ce lo dica. Ho chiesto. Aspetta, perché che non fai la cantante? Ma chi? Ma Cinzia. Allora, posto che il nostro spettatore. Chi è che ha scritto che è della serie Uff? Non ci piace. No, no, ma non era serio. Ok, era vabbè, io ho risposto che la mia passione è ciò che mi fa vivere tutti i giorni felice, serena e contenta. Quindi non la venderei mai. Brava. Mai, mai per dei soldi. Perché mi direbbero non cantare questo, canta quell'altro, fai questo, fallo così, fallo cosà, vestiti così, vesti cosà. No, per me cantare è vivere e respirare. E quindi lo voglio fare esattamente certo. come dico io. Quindi non lo farò mai per lavoro, lo farò sempre per passione, tutti i giorni, tutti i momenti della mia vita. E noi ti ascolteremo. Perfetto. E tutte le settimane. Tutte le settimane. Yes, beh, quindi praticamente lo spazio musicale lo posso fare io. Dai. Lo spazio musicale. Stefano, ce lo fai fare. Io non ho alcun potere decisionale a parte per la regia, cioè abbassare. Io fra un po' vi do le chiavi della radio e voi fate un po' quello che cazzo fare. ogni lunedì una canzone di Gigi. Vabbè, io ho un ospite comunque in arrivo per la annare. Vabbè, allora ho un ospite pronto per annare. Cioè, no, io mi sto immaginando dire? Alessandro Pantani che sta venendo qua ascoltandoci in macchina dicendo: minchia, sono veramente spaventosi questi. Cioè, vabbè, sono peggio di 80. Pantani, ascoltaci in You and I. Però, ok, l'ho però, detta. L'hai detto, stiamo però, cantando di nuovo. Sì, vai. Certo. La regista ha deciso. La regia no, ha deciso. No, è che mi faceva piacere, siccome è una canzone incredibile, mi faceva piacere fare quei commenti un quei po'. Cori. Quei cori un po' ignoranti. Di chi è? Però di Lady Gaga. Di Lady Gaga. Allora, però io sto cercando di dire una cosa importante. Lisa, ce lo dica. Allora, ce lo dica. Imma, questa puntata ancora non ci hai detto Motte Lacond. Ancora. Oh. Lo devo dire ogni volta. Ce lo devi dire ogni volta. Ma e io propongo. Io propongo. Io propongo un jingle. Per cui facciamo. Con Motte Lacond, dove allora, c'è uno spezzone di storia. Che noi tre facciamo tipo. Si vegna. E lei dice. Motte Lacond. Incredibile. Dai, perfetto. Questo lo useremo come jingle. Per la prossima stagione che partirà da settembre. Da settembre. Ci stai? Per me è incredibile. E raccontiamo un aneddoto, non lo so. Qualcosa che magari ci scrivete voi ogni settimana. Che ci raccontate voi, ragazzi, dai. Su, dai. Motte Lacond. Motte Lacond. Esatto. Grazie. Piccola rubrica. Con la rubrica. Ma io sono portato per le lingue, non per il greco, ma tutte come? Le lingue. Dai, dici qualcosa in greco. Duolingua. Cosa a Duolingua non piace questo elemento. Io so sempre solo quella frase. Ego pino as procrastin. Che vuol dire io bevo vino bianco. Ed è vero. Bravissimo. Proprio. Mamma mia. Right now. Ma andiamo alla di Gaga. Dai. Ok. E vabbè. It's been a long time since I came around. Been a long time, but I'm back in town. This time I'm not leaving without you. You taste like whiskey when you kiss me. Oh, I give anything I can to be your baby doll. This time time I'm not leaving without you. He says, sit back down where you belong, in the corner of my bar where your high is on. Sit back down on a couch where we made love at first time, and you say to me this. Something, something about this place. My lipstick on your face. Something, something about just cool Nebraska guy. Yeah, there's something about living you and I. It's been 2 years since I let you go. I could've listened to a joke or rock and roll. My soul car drove a track right through my eyes. Oh, my budget, you sent me out of goal. When I get our home again, no clothes. This time I'm not leaving without you. Whoa. Couch where we made love at first, summoned you. Say to me this. Something, something about this place. Ooh, ooh, ooh, ooh. Something about a lonely night and my lipstick on your face. Something, something about my cool Nebraska guy. Yeah, there's something about Nebraska and Jesus, Jesus Christ, yeah. Something, something about the chase. Something about you. Will your palm but roll you down? Will your lipstick all over your face? Hey. Something, something about just knowing when it's right. To put your drink up for Nebraska. Nebraska, Nebraska, I love you. Came around, been a long time, but I'm back in town. And this time I'm not leaving without you. È finito Corso Spaziale. È finito. Ops, sono i 55. 57. 56. Oh, brava Cinzia. Beh, brava Lisa. No, io ho fatto. Amori miei. Con questo basso livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. Ci tocca, questo era Coxo Spaziale. Naturalmente, grazie. Ci risentiamo lunedì prossimo. Ma speriamo di no. Ma come speriamo di no? Come no? Speriamo di no. Ma in che per senso? L'ultima volta è l'ultima puntata, la 540. Facciamo, oh my god. Facciamo. numero tondo. No. Andiamo in vacanza con un numero tondo. Tu vai in vacanza, io continuo a lavorare. Non sei pronta? Cioè, si fa per dire. Non hai i bagagli fatti? Ma vogliamo continuare no, tutta la vostra. Ho cominciato a lavorare. Faccio un tutorial su you, su you, eh? Cosa? Su Instagram, volevo dire. You what? You what? Su Instagram. La città. Cosa succede? Qualcosa non va. Mi fa venire il vomito la realtà. Da quando non sei più qua. Prenoto il